Teatro del Lido di Ostia, quasi un anno ormai dalla riattivazione del Teatro del Lido, dall'autogestione del teatro. Volevamo fare un po' il punto con voi su come è andato ormai quasi questo anno e soprattutto anche avete organizzato insomma un'iniziativa pubblica per il 26 febbraio. Per la difesa del teatro, ma anche per rilanciare ancora una volta, insomma, un ragionamento attorno al tema della cultura e della produzione culturale nella nostra città, dal centro, insomma, alle periferie come Ostia. Sì, diciamo che il 26 appunto è un anno ormai che il teatro è stato riaperto, è stato rimesso in movimento e ormai abbiamo fatto tantissime iniziative culturali, politiche, dentro e fuori il teatro. Diciamo che la situazione è comunque difficile, anzi in questi ultimissimi tempi sono arrivate le denunce per molti e molte di noi, non solo e non tanto per l'occupazione che già c'erano state, ma addirittura per manifestazione non autorizzata, perché 2 mesi fa eravamo sotto il palazzo del municipio XIII e 2 di noi erano sopra. E, insomma, sembrava che si fosse arrivati dopo che i due scesi a una specie di sintesi, di accordo. Il protocollo che era stato scritto in passato l'avevamo tutto modificato e erano state accolte dai 3 assessori alla cultura di comune, provincia e regione le richieste che noi facevamo. Però, come al solito, quello che è stato messo su carta è rimasto lettera morta, quindi sia dal punto di vista dei finanziamenti, sia dal punto di vista per noi molto importante della partecipazione alla gestione del teatro stesso, di uno spazio pubblico, non è successo niente. Anzi, nel frattempo l'assessore Croppi, come tutti sanno, è andato via e adesso è il peggior nemico di Alemanno, e anzi purtroppo anche viene da tanta parte della cosiddetta sinistra istituzionale, fatto il paladino, insomma, delle politiche culturali a Roma, cosa devo dire abbastanza inquietante, visto che è stato complice di tutte le scelte fatte da questa amministrazione e che nei 2 anni e mezzo in cui è stato assessore ha chiuso il Teatro del Lido, ma ha chiuso l'Horus, ha sgomberato il Rialto, insomma non ne ha fatte poche, ha fatto il tendone, no, contro il bullismo, 1 milione di euro regalato a Maurizio Costanzo per fare bene A nel quel camorrista Gigi D'Alessio. Esattamente. Quindi c'è, voglio dire, qui purtroppo ormai se si diventa di Futuro e Libertà, improvvisamente si diventa un faro nella notte, insomma. Sì, perché insomma diciamo che Croppi poi anche no, spiccava in quella giunta per statura intellettuale e coerenza morale. Sì, anzi era proprio il grande ideologo di quella giunta. Adesso la giunta che è venuta dopo forse è ancora più di basso livello di quella che c'era prima, però comunque lui questi anni non è che è stato da un'altra parte. Ogni volta che c'è stato uno sgombero, ogni volta che c'è stata un'iniziativa poliziesca, eccetera, lui ha sempre detto: ah, ma io ero contrario, ah, ma io non c'ero, se c'ero stavo a letto a dormire, insomma. Quindi devo dire che tutto questo è abbastanza inquietante, perché appunto poi la situazione del Teatro Lido, nonostante noi siamo comunque attivi, propositivi, e il 26 facciamo questo discorso su un anno di occupazione e autogestione dello spazio, però la situazione è veramente dura, insomma, cioè nel senso che comunque passando il tempo chiaramente ci sono delle difficoltà. Noi rilanciamo comunque, ci sarà questa parata, questa grande parata, ne abbiamo fatta una molto bella anche l'anno scorso, che ha attraversato metà Ostia dal teatro al centro e ritorno, sempre per sensibilizzare, tenere i cittadini comunque dalla parte nostra informati rispetto a quello che sta accadendo, nonché poi stiamo organizzando anche dentro al teatro open mic, appunto un microfono aperto, raccogliendo proposte proprio in questi giorni, perché appunto ci sembra importante far vivere sempre il teatro come un dentro fuori, come qualcosa che si fa dentro ma che è rivolta alla città e che quindi non è chiusa e non vuole raccontarsi solo a 4 persone, ecco, ma Io due cose ti volevo dire, che un po' si intersecano anche da quello che dicevi te. Negli ultimi anni il governo di una grossa metropoli come Roma si misura anche, no, anche dal punto di vista produttivo, di crescita, anche sulle iniziative culturali. Pensiamo comunque anche a una gestione che non condividiamo, comunque, come quella di Veltroni al Comune di Roma, e però riusciva a dare comunque un'impronta in qualche modo, magari fatta comunque di consociativismo, fatta comunque magari di, appunto, di grandi eventi, e poi di mancanza di finanziamenti alle cose, alle iniziative, alla cultura dal basso, fatta anche di slogan notti bianche, grosse iniziative fatte anche di precarietà sul lavoro, eccetera eccetera, che comunque però dava un'impronta alla città. Quello che più colpisce dell'amministrazione Alemanno rispetto anche alla cultura è l'assoluta, totale mancanza di segno che ha dato questa amministrazione alle politiche culturali, con tutta una città come Roma, una città che ormai vive, insomma, sul turismo, sul terziario, sulle iniziative che ruotano attorno al mondo della cultura, eccetera. È una dei dati che impressiona di più. Assieme a questo, l'altro dato che impressiona molto è anche, da questo punto di vista, l'abbandono totale dei territori periferici. E periferici proprio rispetto al centro, magari non periferici dal punto di vista sociale, neanche magari a volte produttivo, ma rispetto proprio al centro della città, nella maniera, una visione anche un po' miope di leggere una città. E uno di questi, insomma, è proprio Ostia. E voi, insomma, vi trovate un po' al crocevia di tutte queste questioni. Sì, cioè, purtroppo sì, nel senso che veramente è giustissimo quello che dicevi rispetto al passato, e purtroppo dobbiamo dire che questo presente che viviamo è figlio di quel passato, perché è vero che ai tempi della giunta Veltroni si sono fatte delle cose, nonostante... No, ma era lungi da me difenderla. No, la critica alla politica dei grandi eventi, che è sacrosanta, perché veramente ha sottratto un sacco di risorse e ha fatto a lui la campagna elettorale, che poi ha perso, perché vabbè, stendiamo un velo pietoso, insomma. Ma il discorso è che adesso c'è... Il povero Alemanno tenta anche di dare un segno, no? Cioè, si inventa il Gran Premio di Formula 1 all'Euro, oppure abbattiamo Torbella Monaca e la ricostruiamo più bella che mai. Oppure no? La candidatura di una città in preda ai scandali di corruzione alle Olimpiadi. No? Cioè, tutto questo secondo lui, o secondo i suoi, insomma, scagnozzi, che poi, insomma, sono ben pagati, perché non so se tutti sanno che Alemanno ha decine di persone che lavorano solo nell'ufficio stampa. A spese nostre, insomma, sono tutti contratti di consulenza che sottraggono immense risorse che potrebbero essere investite altrimenti, e quindi lui tenta di dare un segno che poi, appunto, non va da nessuna parte, perché è solamente lo slogan, il lancio di qualche cosa, e rispetto ai territori, soprattutto quelli che vivono difficoltà oggettive, perché, insomma, cioè, la periferia di Ostia, già Ostia è periferia, ma la periferia di Ostia, dove sta il teatro, cioè, vive veramente condizioni di degrado urbanistico, abbandono scolastico, insomma, veramente rilevante. Cioè, tutto questo proprio già era difficile confrontarci 5-6 anni fa, adesso è veramente tosta, nel senso che non ci sono proprio più le condizioni, cioè... La vita è tornata a essere veramente quella proprio di una borgata, come poteva essere 30 anni fa, 40 anni fa, insomma, cioè, ai tempi di Pasolini, insomma, cioè, purtroppo, e lì, tra l'altro, Ostia è stato sempre un laboratorio della destra, quella, insomma, di Buontempo, che veniva eletto là, della destra quella più attiva da un certo punto di vista, proprio di sperimentazione di un certo tipo di politica, di una certa idea. Cioè, non dimentichiamoci che Ostia, lo ripeto sempre, da 2 anni, appunto, un anno e mezzo fa, un'associazione con il patrocinio del municipio ha dato un premio alla poesia a Licio Gelli. Cioè, questo, voglio dire, Licio Gelli, scrittore di pagine cruente della nostra storia, condannato a 10 anni per depistaggio sulla strage di Bologna, viene insignito con il patrocinio del municipio 13 di un premio alla poesia. Io non so se qualcuno degli ascoltatori sa che Licio Gelli è poeta, a me era sconosciuto, insomma, adesso lo so invece, e questo, cioè, questo è il senso della cultura che loro hanno, che loro propongono. Quindi c'è nessun tipo di cultura diffusa, cultura dal basso, attenzione, diciamo, ai bisogni, progettazione. Anzi, uno dei pochi spazi che era stato fatto rivivere a una posizione anche molto giovane, adesso si trova anche dentro il Teatro del Lido, che era quello del collettivo L'Officina, che era l'ex Chiasel Vittorio, comprata e riconsegnata alla Chiesa. Alla Chiesa, con la complicità di Sant'Egidio, tra l'altro, sempre perché, insomma, le cose poi sono sempre più complicate e magari anche un po' più sporche. sì, uno spazio anche lì che ha vissuto e ha dato appunto, non dico speranza, ma comunque possibilità di incontro a giovani e giovanissimi che hanno programmato iniziative. Vicino al centro socioabitativo, cioè il centro dove ci sono gli immigrati comunque, no? Cioè in una relazione comunque importante, tutto questo a loro non interessa perché loro ideologicamente appunto dove ci stanno gli immigrati bisogna comunque fare pulizia. In questo senso sono veramente molto più ideologici di quanto uno può immaginare, perché poi cioè, se uno va a scavare il vero motivo per cui il Teatro del Lido è chiuso, poi e vai a parlare con qualcuno di questi qua, loro ti dicono ma perché lì comunque è un covo dei comunisti, e quindi insomma non è che noi possiamo finanziare queste robe qua, cioè magari ti dicono anche che è importante la cultura in periferia. Anche un municipio da questo punto di vista non è stato molto lungimirante, nonostante oggi ci sia Vizzani che gallineggia sulla Repubblica chiedendo i poteri speciali per appunto per Ostia al mini sindaco. Certo, sì, beh, il municipio in questo, anzi, poi ci sono anche spazio, perché poi il PDL del municipio c'ha alcuni rappresentanti, tra cui il capogruppo, che in realtà sono stati sempre, con qualche breve eccezione, dalla parte nostra. Anche adesso, se vai a vedere, c'è un comunicato della settimana scorsa dove solidarizzano con quelli che sono stati denunciati, e hanno fatto anche loro, poveracci, dal loro punto di vista, un piccolo percorso, come dire, che ha chiesto ogni volta conto alle Manne e a Croppi di quello che stavano facendo, dell'idea che ci avevano, del fatto, cioè del motivo perché non ci mettono i soldi, che poi sono veramente pochi soldi rispetto ai milioni di euro che hanno sprecato con le assunzioni all'AMA, all'ACEA, all'ATAC, no? Cioè lì con qualche centinaio di migliaia di euro fai vivere il teatro per anni, capito? Cioè dai lavoro anche a delle persone che ci lavoravano e che sono ormai da 2 anni e mezzo senza lavoro, e invece assolutamente no, cioè il municipio in questo non ha contato niente, anzi alcuni hanno anche lavorato a partire dal presidente contro il teatro stesso, e il comune ha sempre sentito Ostia come una specie di palla al piede, insomma. Ok, noi ti ringraziamo per questo tuffo tra cultura, periferie del Lido della Capitale. Mi raccomando, il 26, partecipa. Sì, cioè, c'è lì.